Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Well, I'm going home. Going home, going home, going home. Yeah, I never, never believe in it. I'm going home, going home, going home. I'll meet you all at a show. I got it way, got it, got it way. E buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui per questo sabato sera su Radio Wombat a Tonight Alive per la 55esima puntata su Radio Wombat di Tonight Alive. E la sigla di stasera di uno dei protagonisti della puntata era I'm Going Home di Charlie Fatton del giugno del 1929, e ovviamente, come avrete potuto ben intuire, Charlie Fatton è uno dei due protagonisti di stasera, l'altro è il suo discepolo nonché allievo Son House, per fare un tuffo nel country blues di inizio Novecento, da dove si può dire che sia partito gran parte della musica occidentale del XX secolo, sicuramente. Ma come sempre, prima di iniziare la puntata, ricordiamo i nostri indirizzi per mettervi in contatto con noi qui di Radio Wombat, e ovviamente il sito è rimasto sempre lo stesso, wombat.noblogs.org. La frequenza in onde medie per la zona di Firenze è sempre la stessa, 1359 1359, mi raccomando, sulle onde medie dei vostri, delle vostre autoradio. E poi la nostra amata mail, che è sempre postawombat@insiberia.net, e i nostri canali social sempre attivi con Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e il nostro canale Facebook, che è facebook.com/radiowombatfirenze. Ma prima di iniziare la puntata, entrare nel pieno della puntata di stasera, ricordiamo un po' cos'era questo, cos'è questo famoso blues, questo genere proprio tipico della, degli Stati Uniti d'America. Era un genere nato nel sud degli Stati Uniti dopo la guerra di secessione americana a metà del 1800, e è una musica che è un melting pot di tantissime influenze musicali del periodo, come ad esempio il ragtime, ma soprattutto anche i canti dei lavori di lavoro degli afroamericani nei campi e nella costruzione delle ferrovie, ad esempio, oppure i famosi field sollers, i richiami nei campi di cotone che facevano gli schiavi e gli ex schiavi mentre raccoglievano i batuffoli dalle piantine, ma anche la musica dei minstrel show, questi spettacoli itineranti che già dagli albori della conquista del West giravano gli Stati Uniti d'America, intrattenendo e cercando di vendere sciarpame ai clienti che trovavano in giro nei paesini dell'America. Ma anche e soprattutto gli spiritual e la musica di chiesa. Infatti gli afroamericani, gli ex schiavi, erano molto religiosi. Se pensate, era forse l'unico canale di sfogo che potessero avere, di libertà durante la schiavitù. È per questo che sicuramente sono sempre stati molto attaccati alla religione. Ma un'influenza sul blues l'hanno avuto anche sicuramente la folk music, la musica popolare della popolazione bianca degli Stati Uniti, che portavano con loro tutte le varie tradizioni musicali europee, da quelle nord europee, ma anche soprattutto grazie agli italiani, quelli del sud Europa. E la maggior parte dei bluesmen erano lavoratori delle piantagioni, ovviamente, e anche perché il background culturale, ecco, appunto, di quelli che da poco erano degli ex schiavi era quello. E le prime testimonianze che si possono chiamare blues risalgono più o meno alla fine degli anni della fine dell'Ottocento e proprio i primissimi anni del Novecento. La prima composizione blues si può considerare quella di W.C. Handy, il primo famoso compositore afroamericano che scrisse Memphis Blues nel 1912. E leggenda narra che W.C. Handy, mentre sostava in un vagone di un treno che si stava riposando e stava cercando di dormire, una sera sentì questa musica stranissima che non aveva mai sentito, ed era appunto la prima volta che sentiva quel tipo di musica cantata in modo così lamentoso e accompagnata solamente con una chitarra suonata con l'aiuto di un coltello. Ritrovato poi in seguito il musicista, volle conoscerla a tutti i costi e disse di chiamarsi Henry Sloan, un vecchio, un anziano della Dockery Plantation vicino a Ruleville, Mississippi. E ricorda nella sua biografia che era più o meno il 1903, e questa Dockery Plantation è la stessa piantagione dove si era trasferita dal 1897 la famiglia Patton, e in quella famiglia era nato circa 100 miglia più a sud, e in una data imprecisata tra il 1881 e il 1891, pensate un po'. Va bene che non c'era l'anagrafe per gli afroamericani, però insomma un lasso di tempo di 10 anni, era nato intorno tra, in una data imprecisata tra il 1881 e il 1991, un certo Charlie Patton. Giusto per dire che sicuramente Patton non inventò il blues, questo è un falso mito ovviamente, e lo apprese e lo rielaborò probabilmente da Henry Sloan, visto che era della stessa piantagione, ma insieme a Henry Sloan già nella fine dell'Ottocento c'erano diversi dischi in cera lacca incisi da bluesmen. E anche se Patton sicuramente con l'avvento della musica registrata sarà considerato il padre del Delta Blues, e anche la paternità di Charlie Patton era abbastanza incerta. Infatti i suoi genitori erano sì Billy ed Annie Patton, ma nelle sue vene scorreva anche sangue per un quarto indiano, Cherokee per l'esattezza, ed un quarto europeo, e in giro in paese veniva sempre accompagnato proprio come un padre dallo schiavo liberato, da Anderson Chetmon, lo zio della madre, che era tra l'altro anche un musicista di string band molto famosa nella zona del Delta, sia da solo che in gruppo. Infatti era il fondatore dei Mississippi Shakes, un gruppo molto famoso in quegli anni nel Delta del Mississippi, ed il piccolo Charlie imparò a cantare e a suonare la chitarra molto presto, ovviamente, e di lì a poco capì che era meglio guadagnarsi da vivere suonando che non spaccandosi la schiena nei campi di cotone, e questo è il suo primo pezzo, dopo ovviamente la sigla, High Water Everywhere Part 1, Charlie Patton, Tonight Alive, Radio Wombat. The back water of the roads are out some now. Throw me down that line. Back water don't roll out down the road. Put y'all down that line. And I tell that water, don't jump through this town. Lord, that old wrong. Down around country, man, it's overflow. You know, I can't stay. I'll go wild, fine, boy. I want to go to the country, but it got me bummed. Now look at y'all, now Lila, silver rising high. Look at y'all, boy, now Lila, to me. River's raging high. Boy, it's rising over there, yeah. I'm gonna move over to Greenville. Boy, I think it's goodbye. We have water down, Lord, it's a broke. Road won't get red well. The water I give it. and little, more and I know everywhere. Boy, you can't ever see ya. I would go down the road down, but you tell me it's water now. Now the water now, mama, don't drop yours it down. Well, now tell me the water, don't drop yours it down. Boy, I'm going to Big Brother. Well, I'm going to Big Brother for a high mind. I am going out that water while it don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water don't ever blow. Boy, Charlie Conn and there's still a zombie store. Fallout County, one is down over in Tallahassee. Boy, when Tallahassee, you gotta go over there. Lord, the water that rests on them. Jackson Road, Lord, the water that rages over Jackson Road. Boy, got my claws. I'm going back to the hill country. Won't be worried no more. E questa era High Water Everywhere Part 1 di Charlie Patton, 1929. Appunto provò a andare a iniziare a suonare in giro per vedere di evitare il lavoro nei campi di cotone. E dall'inizio non ci riuscì, ma comunque si prese delle belle soddisfazioni. Infatti già nel 1915 era il musicista più popolare del Delta, un'autentica attrazione, un funambolo, una sorta di clown. L'epoca e il contesto richiedevano che chi suonava fosse anche e soprattutto un intrattenitore. Fu lui a inventare il passo dell'oca, poi reso famoso da Chuck Berry. Suonava al buio agitando la chitarra dietro la testa alla stessa maniera poi spettacolarizzata da Jimi Hendrix. Si rotolava per terra come un ossesso e cantava bofonchiando in una lingua incomprensibile che somigliava tanto a Parole in Libertà. E ad onore del vero, questi erano solo alcuni dei molti trucchi utilizzati da quanti si esibivano per divertire il pubblico in un periodo in cui i medicine show erano ancora l'attrazione più diffusa. I bluesmen solisti si affidavano necessariamente alla propria abilità istrionica per compiacere il gusto di platee in cerca di un po' di svago dopo durissime giornate di lavoro nei campi. Patton seppe però elevare il funambulismo a forma d'arte, concentrò in sé ogni aspetto di quella tradizione, trasportandone tutte le tecniche e i trucchi in un formato solista. Questo è il suo merito storico più grande, e fu anche per questo la prima e forse l'unica autentica star moderna del country blues. E ora andiamoci ad ascoltare uno dei suoi pezzi più famosi, Spoonful Blues, Charlie Patton, Tonight Alive, Radio Wombat. I'm about to go to jail about this spoonful. Dead by love, these women going crazy, every day they lie by. Will you kill a man, baby? Yes, I will. Dead by love, I'm a fool about love. Don't take me long to get my. Lifetime. It's about a it is in my long. Bye bye bye. wanna be, you don't wanna fight better. Look at your baby, would you slam me? Yes, I will. Yeah, better. Baby, yeah, you know I'm a cooler. Bad man. Would you kill a man? Yes, I will. You know I'll kill you. Yeah, better. Oh, dear man, let you see it. Fool about it. Baby, I mean that old baby. I want to hear the gym, baby. Won't quit me, yeah. Aren't you better? It's all I want, baby. It's me, you know. Look at here, baby. I'm leaving town. Just better, baby. You know I need. Mad, eh? But I want my baby. I'm full of bad day. Let me hear, honey. I need that for giving me living down. Don't need me. I know that. But baby, I'm sitting around here. Ain't got no. E questa era Spoonful Blues, sempre di Charlie Patton, ovviamente. Ed essendo il più vecchio tra i molti bluesmen che incisero nella seconda metà degli anni 20, sono state attribuite a lui nella formazione del mito del blues invenzioni di paternità invece perfettamente popolare e diffusa. Un mito che peraltro prosegue anche nell'altra grande leggenda che lo avvolge, e cioè che fosse uno sciupafemmine perennemente in fuga da mariti cornuti, un gran bevitore e un fumatore nonché attaccabrighe impenitente. Nella realtà Patton aveva un fisico a dir poco gracile, era alto appena 1,60 m ed era uno stanziale che si spostava dalla Dockery Plantation solo per suonare ai suoi concerti in giro nei paesi dei dintorni. Ed i suoi spettacoli però erano così eccentrici da richiamare per l'epoca oceaniche. Si esibiva dovunque lo chiamassero, in genere feste di paese ma anche barrel house, i bar di infimo ordine con annessi casino e casino, ed era piuttosto allergico ovviamente a farlo senza essere pagato. Patton adattò il proprio suono a quello che erano essenzialmente esigenze di scena, creando di conseguenza una musica molto ritmata, grezza e ballabile, che accompagnata da quella gestualità spettacolare conteneva in nuce ognuna delle caratteristiche dell'universo rock che poi verrà dopo. Ad ascoltarlo si comprende ancora una volta quanto libero fosse il fluire del suono del country blues. Nelle sue note risuonano spesso accordi che oggi definiremmo country, folk e ragtime. E questa è Shake It and Break It, Charlie Patton. Cages going ball, my jelly. I roll, clean mountain, let it fall. Everybody have a jelly roll like mine. I live in town, I ain't got no brown eye. I don't want it now, my jelly. I roll, clean mountain, let it fall. You start to trap, you break it, you push it, you the way that I never get it on. And my right mind is on. I'll blow the town, my jello. Borrow, feed my own, you let it fall. Just shake and flip, hang it to the wall. It out of what I'm keeping ball. Stupid pretty, you can hang it to the wall. It out of what I'm keeping, my jello. Borrow, feed my own, you let it fall. I ain't got nobody to help me. They blew all the time, ah. When the sun was down, my jello, my rope, feed my blue, let it fall. You can shake it, you can break it, you can hang it to the wall. You gotta wanna kill you with ball. Break it, you can hang it to the wall. Gotta wanna kill my jello, my rope, feed my blue, let it fall. You can snatch it, you can grab it, you can bring it, you can twist it in the way that I can get it out. And my right mind, ah. He was jumped tied by the jelly. My rope, feed my window, you let it fall. Just shake it, you can bring it, you can hang it to the wall. You gotta wanna kill it, boy, ball. You can bring it, you can hang it to the wall. You gotta wanna kill it, boy, ball. My jelly, my rope, feed my window, you let it fall. I walked in the town, I walked around, I saw the river town, I fooled around. My jelly, my rope, feed my own, you let it fall. Just shake it, you break it, you can hang it to the wall. Get out of what I kill you with more. You break it, you can hang it to the wall. Get out of what I kill you with my jelly, my rope. Feed my own, you let it fall. Just shake it, you break it, you can hang it to the wall. Get out of what I kill you with my jelly, my rope. Feed my own, you let it. Let it fall. No, bellissima, perché poi non so tra l'altro se ci avete fatto caso, però è veramente la stessa identica canzone da cui Country Joe and the Fish poi tireranno fuori la famosa I Feel Like I'm Fixing to Die, la canzone che suoneranno a Woodstock, e l'hanno ripresa proprio pari pari. Da qua la chitarra è proprio la stessa, ma anche lo stesso il ritmo, la scansione delle frasi è la stessa. E appunto, ritornando al discorso di prima di quanto influenza ha avuto Charlie Patton anche poi nella storia del rock moderno, tra virgolette. E Patton si esibiva soprattutto a Dockery Plantation, che era sconfinata, enorme, e anche nelle piantagioni adiacenti, e si faceva spessissimo accompagnare, ormai avevano quasi tirato su insomma un gruppo di musicisti, e si accompagnava spesso con Willie Brown, il mitico Tommy Johnson, cioè vera, autentica stavolta figura di tutti i lati dei bluesmen, che possa avere quelli detti di primo, sciupa femmine che scappava, alcolizzato, morto giovane, venduto l'anima al crocicchio, all'incrocio ancora prima di Robert Johnson. Insomma, Tommy Johnson era un altro che ne aveva veramente di tutte, era un altro sodale appunto di Charlie Patton, come Fiddlin' Joe Martin e Son House, che poi andremo a sentire dopo, ma anche un certo Chester Barnett, che i più affezionati si ricorderanno poi che quando si sposterà a Chicago diventerà Howlin' Wolf. E appunto insieme a loro si esibirà soprattutto nelle piantagioni dei dintorni, e come abbiamo visto diventerà veramente molto famoso nella zona. E tra l'altro, grande classico della maggior parte dei bluesmen, finirà anche nella famigerata prigione di stato del Mississippi, quella che era detta Parchman Farm. Era il nome a cui avevano dato il al carcere di stato del Mississippi. E si fece un paio d'anni tra il 27 e il 28 per una sparatoria, e la leggenda vuole appunto di mariti cornuti probabilmente. E Patton in quegli anni era descritto come appunto un entertainer a tutto tondo che suonava blues, country blues, ma anche canzoni da bianchi, canzoni illibilli proprio tipiche delle zone di campagna bianche, ma anche ballate di fine Ottocento. La sua varietà di canzoni spaziava tra la musicalità bianca e quella nera delle music, dei country dance della zona, dei luoghi dove andava a ballare le persone. E grazie appunto a questa duttilità e a questa anche notorietà raggiunta nella zona del sud del Mississippi, del delta del Mississippi, iniziò anche a andare regolarmente ad esibirsi, pensate un po', fino a Chicago, e nel 1934 arriverà anche a conquistare e andare a suonare a New York City. E il prossimo pezzo di Charlie Patton è Some Summer Day, Tonight Alive, Radio Wombat. Found him. Anche questa canzone non vi ricorda qualche altra canzone, ad esempio tipo Sitting on Top of the World, giusto per dirne una che hanno risuonato non si sa quanti bluesmen, poi dopo Charlie Patton, questa era ancora Some Summer Day, diventerà Sitting on Top of the World, se non ricordo male, nella versione appunto dei già citati Guarda un po' Mississippi Shakes, e da lì la rifarà veramente chiunque nel mondo del blues, tanto poi fino ad arrivare alla versione Power Blues famosissima dei Cream di Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce. E però a questo punto volevo farvi sentire anche un altro pezzo di Charlie Patton, sempre più o meno del 1930, in questo caso con uno pseudonimo, infatti non pubblicò con il suo nome, ma con uno poi degli pseudonimi che userà per altre pubblicazioni, in questo caso accreditato a nome Elder J.J. Hadley, Prayer of Death, un altro grande classico degli anni 30 di Charlie Patton, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat, chiaramente. Heading for the bill again. Tell a tale of a song like this. We can stand, we can sing. You and I never see you again. We can stand, we can sing. I'll meet you on the road. I got it away. Stop when frown, I hear me call him Lord. Oh Lord, oh Lordy. Questa era ovviamente I'm Going Home, che era la nostra sigla di stasera, e non era Prayer of Death, prima parte che volevo farvi sentire, appunto questo brano inciso con il suo pseudonimo di Elder J.J. Hadley, però è andata così e ci siamo risentiti questo gran pezzo di Charlie Patton. E finalmente nel giugno del 1929 Patton riuscì a incidere la sua prima sessione per la Paramount e nell'ottobre dello stesso anno la seconda e poi nel giugno del 1930 e la terza nel 1934 dopo ben 4 anni, l'ultima a New York. E 66 canzoni in tutto e molte altre, buona parte dell'ultima session, andate distrutte solo perché non pubblicate secondo l'uso dell'etichetta Vocalition, e quindi una grandissima fetta del materiale inciso da Charlie Patton se n'è andato, perlomeno che non venga riscoperto come spesso succede, qualche master sperduto qua e là, e speriamo che prima o poi il tempo ci ritiri fuori le canzoni originali di queste session andate perdute di Charlie Patton. E Patton a un certo punto toglie le tende appunto dalla Dockery Plantation e va a stabilirsi a Holly Ridge, sempre in Mississippi, insieme a sua moglie e nonché partner musicale Berta Lee, e si spostano nel 1933 appena in tempo, perché l'anno dopo Charlie Patton lascia questa terra di lacrime nel 28 aprile del 1934 ad Indianola, e molto probabilmente è morto per un attacco cardiaco, però la leggenda è sempre molto sfumata intorno a queste cose. La versione ufficiale è questa, e Charlie Patton fu veramente un vero entertainer popolare, teatrale, aggressivo fino all'istrionismo. Fu il più grande e il caposcuola della generazione dei bluesmen degli anni 20 e 30, sia in campo vocale, dove amare ed esuberante impose il grido e la ferocia, sia in campo chitarristico, nel quale conosciò il suo vibrante stile slide con la bottleneck, che in fondo rappresentava un'altra approssimazione della voce umana. E era solito accordare la chitarra un tono più alto e uno più basso del normale per ottenere effetti stridenti e molto ritmici, stoppava le corde basse per dare un effetto sincopato alle canzoni in una maniera che sarebbe diventata fondamentale nel funk, e picchiava sul corpo della chitarra come se fosse una percussione, mentre con i piedi teneva un controtempo, quasi un breakbeat ante litteram. Suonava magistralmente la slide, in molti pezzi cantava su due registri di botta e risposta, ottenendo da solo un effetto antifonico, un altro trucco ereditato dalle pantomime dei Medicine Show. E passava in un attimo da canti religiosi a siparietti dai pesanti doppi sensi, dalle drammatiche cronache sociali come la già ascoltata e celeberrima High Water Everywhere, fino dell'inondazione del Mississippi che nel 1927 decimò la popolazione del Delta, fino a fare sketch comici. Le sue canzoni attingevano anche dalla musica bianca. Ascoltate per esempio i pezzi con Henry Sims al violino, sono puro illibilli bianco. Tra i suoi discepoli e ammiratori si contano ovviamente Sondheim, che era il prediletto e che tra l'altro Patton introdusse, come poi vedremo, al music business, un'altra leggenda come Bukka White e, come già citato, Chester Barnett, Howlin' Wolf, fino a John Fay, il grande John Fay, di cui abbiamo anche già fatto una puntata, che appunto si laureò con una tesi proprio su Charlie Patton, fino ad arrivare a Bob Dylan, che una volta in un'intervista disse che se facessi solo dischi per il piacere personale registrerei solo canzoni di Charlie Patton. E andiamoci a sentire quest'ultimo pezzo di Charlie Patton, in questo caso insieme al fido compare di scorribande Willie Brown, in Dry Well Blues. Tonight Alive, Radio Wombat. Preciso, e questa era appunto Drywell Blues di Charlie Patton in coppia insieme all'amico Willie Brown, e questa canzone capita proprio a fagiolo per introdurre appunto il discepolo più, diciamo, quello che è spiccato più di tutti nella storia del blues tra i discepoli di Charlie Patton, discepolo nonché ha sempre avuto questo rapporto di amore e odio, son Eddie James, detto Son House Junior. Sempre erano due persone completamente diverse, molto molto calmo e tranquillo Son House, il più giovane, quanto esagitato e scavezzacollo Charlie Patton. Quindi anche se c'era una grande stima, rispetto, amicizia, diciamo che non se le mandavano certo a dire uno con l'altro. E per introdurre un minimo Son House, era nato proprio poco più in là di Charlie Patton, sempre in Mississippi, in questo caso in un sobborgo nord della città di Clarksdale, e dopo essersi sposato molto giovane poi fuggì appunto dal lavoro nei campi da cui era stato destinato dalla moglie, e di lì si convertì al cristianesimo e ebbe, diciamo, tra virgolette, l'illuminazione. Poco più che ventenne, addirittura intraprese la strada per diventare un pastore battista. Strada che però, come vi potrete immaginare, interromperà con diversi anni dopo, con notevoli conflitti personali tra le croci del cristianesimo, il whisky e le donne, che con queste ultime due, che poi evidentemente vinsero la partita sulla prima, anche se poi vedremo magari solo inizialmente. Nel 1927, all'età di 25 anni, Sonnhaus intravede un inizio di carriera musicale, cosa che pochi anni prima, diciamo prima del che quando ancora era abbagliato dalla luce del Signore, non era una cosa che gli andava per niente congeniale. E poi invece diventerà appunto la sua principale attività, accompagnato lì nei dintorni di Clarksdale dai suoi compagni di bevute e anche di suonate, tra cui molto probabilmente James McCoy, che poi diventerà uno dei più famosi session man delle nascenti stelle country blues. E suonava James McCoy suonava già in questo stile bottleneck, come già detto, ovvero facendo questa tecnica slide, usando o il collo di una bottiglia o un coltello. Anche Sonnhaus non aveva mai visto usare questa tecnica e rimase appunto folgorato dallo stile di McCoy, tanto che poi prese da lui due pezzi che inciderà tra le sue prime incisioni, e anche due tra i pezzi più famosi, ovvero My Black Mama e Preaching the Blues. E tra il 1927 e il 1928, mentre stava suonando in un juke joint, in una specie di saloon, in un barraccio, mentre era a suonare in questo juke joint, entrò questo tizio che iniziò a sparare e ferì Sonnhaus a una gamba, che in tutta risposta, da puro stile Far West, prese e lo fece fuori. Soltanto poi arrivò la famosa madama del West e si vede piombare addosso una bella condanna di 15 anni di lavori forzati alla Mississippi State Penitentiary, la già citata e tristemente famosa Parchman Farm. Quindi anche Sonnhaus con circa un anno di ritardo rispetto a Charlie Patton visiterà le patrie galere dello stato del Mississippi. E appunto dopo un annetto riuscirà a uscire da Parchman Farm grazie all'interdizione del piantatore bianco per cui la sua famiglia lavorava, insomma il proprietario terriero per cui la sua famiglia lavorava, e riuscì a uscire fuori da Parchman solo dopo un anno dei 15 che gli erano arrivati tra capo e collo. E quindi, per ringraziare di questo lieto evento, adesso ci ascoltiamo Preaching the Blues di Sonnhaus. You know, I said I was gonna get me religion, and I was gonna join the Baptist church. Yeah! time to change. You know I wanted to be a Baptist preacher, so I wouldn't have to wait. Deacon looked around. He say he began to grin. I say one of my old deacons looked around, and he began to grin. He say, you know one thing, Elder, I believe I'll go back to Barrhausen again. You know, then one sister jumped up and she began to shout. Yeah, one sister jumped up. I said, she began to shout. She said, I'm so glad that this corn liquor's going out. And then another old deacon looked around. He said, sister, why don't you hush? Yes, I looked around and I grabbed up my suitcase and took out down the road. Yes, I grabbed up my suitcase and I said I took out down the road. May the Lord have mercy on your soul. You know I said I was gonna preach these blues, and I go Judas, my steed and said I'll run. Questa era Preaching the Blues di Son House. E quando tra il 1929 e il 1930 uscirà da Parchman Farm, la città di Clarksdale invitò caldamente Son House a togliere le tende e non farsi vedere più, mai più, nella contea della cittadina del Mississippi. E quindi inizialmente prese e si mise in cammino verso Jonestown. Da lì prese un treno verso la piccola città di Lula nel Mississippi, 16 miglia a nord di Clarksdale. E per pura coincidenza, anche un'altra grandissima star del Delta Blues era in esilio forzato a Lula, e ovviamente stiamo parlando di Charlie Patton, che anche lui appunto era stato caldamente invitato a togliere le tende dalla Dockery Plantation insieme al suo sodale Willie Brown. E appunto in quel periodo Patton dominava completamente la scena blues locale, tanto che arrivavano addirittura dall'Arkansas a sentire suonare lui e Willie Brown. E Charlie Patton appunto trovò Son House che stava suonando su un marciapiede senza un becco d'un quattrino di fronte alla stazione ferroviaria di Lula. Ma non andò subito a conoscerlo, e l'osservò alla distanza e finché non trovò appunto Son House che si stava esibendo anche lui a Lula di fronte a un negozio di liquori della cittadina. E nel frattempo, lì nel periodo di esilio forzato a Lula, strinse un'amicizia fraterna con Willie Brown, con il sodale di Charlie Patton, e con lui viaggiò per tutti gli stati del sud portando in giro un medicine show che gli permise, come diceva lui, di vivere senza lavorare nei campi, tra virgolette. E fu proprio Willie Brown ad introdurlo appunto a Charlie Patton dopo quell'incontro lungo le strade di Lula, personaggio con cui Son avrebbe sempre intrattenuto rapporti controversi e burrascosi. Non ne amava per niente l'estro da giocoliere, ma era colpito dalla veemenza con cui suonava la chitarra, un'intensità emotiva in cui leggeva lo stesso trasporto che lui un tempo provava cantando alle funzioni religiose. E i due avevano caratteri completamente diversi, come già detto, tanto ilare e scavezzacollo il vecchio, tanto timido ed introverso il giovane. Litigavano spesso e Son non perse mai occasione per rimproverare l'altro degli eccessi spettacolari con cui si presentava il pubblico. E in un'intervista del 1966 proprio letteralmente dichiarò che era un clown, un giocoliere e una grandissima testa di cazzo. Gli unici momenti in cui andavamo d'accordo era quando eravamo davanti a una bottiglia di whisky. E fu probabilmente dopo una buona bottiglia che Charlie Patton nel 1930 si portò appresso lui e Willie Brown a Grafton nel Wisconsin, convincendo i discografici della Paramount a far incidere entrambi una manciata di pezzi. E uno di questi pezzi incisi in questa prima session a Grafton è appunto Mississippi Country Farm, dedicata a Parchman Farm. E tra l'altro da notare che questo è un pezzo che era letteralmente scomparso dai radar, non si trovava più, finché casualmente, come spesso succede, è stato ritrovato solamente nel 2006. E appunto andiamoci ad ascoltare questa perla ritrovata in chissà dove di Son House dalle sue session del 1930, Mississippi Country Farm. Tonight Alive, Radio Wombat. Baby, my mama loved, wish I was what a baby my mama's arms. Sweet child, what a baby in my mama's arms. When a band wagon on the county farm. I'd rather be broken out of door. I'd rather be broken out of door. I'd rather be broken down and out of door. And be a wife on the pony floor. Sometimes 6 months and some a year. Sometimes 6 months and some a year. Comunque i singoli non ebbero alcuna fortuna, la crisi della Grande Depressione era ormai scoppiata e Sondhaus capì che non avrebbe tirato fuori un granché da quel mestiere di musicista. E per qualche anno continuò a suonare, ma poi quando nel 1934 Charlie Patton morì, capì che un'epoca era finita e appese la chitarra al chiodo e la sostituì con lo sterzo di un trattore. E fu solo nel 1941 che tornò ad imbracciare la sei corde, quando il mai troppo citato e mai mai reso abbastanza merito Alan Lomax suonò alla sua porta e quasi lo costrinse a incidere due session per la Library of Congress, e ne vennero fuori una ventina di canzoni, alcune registrate da solo e altre con l'accompagnamento del vecchio amico Willie Brown alla chitarra, di Joe Martin al mandolino e di Leroy Williams all'armonica. E le session effettuate con Alan Lomax sono già molto diverse per lo stile da quelle che aveva inciso nel 1930. Scusate, ho perso un attimo il filo. Sì, appunto, pur essendo sempre in uno stile così secco ed essenziale, è molto più fluido e dilatato nelle registrazioni con Lomax del 42-43. I pezzi sono molto più lunghi, anche oltre i 6 minuti, e l'interazione tra i musicisti sembra già collocata nel nascente blues elettrico, del quale Sondhaus e gli altri erano per l'altro completamente all'oscuro. Bella e commovente la romantica ballata Folklore Blues, esemplare il dialogo a cappella dei Camp Hollers, brillanti Hillbilly Rag di Am I Right or Wrong e la performance vocale di Pony Blues, forse il suo pezzo più famoso, poi diventato uno standard insieme a Dead Letter Blues, e letteralmente superlativa e poi la performance alla slide di Lowdown Dirty Dog Blues, e appunto da questa leggendaria session per la Library of Congress registrate da Alan Lomax ci andremo ad a sentire a ruota appunto due pezzi tratti da queste session, ovvero le già citate, la famosa Pony Blues e Lowdown Dirty Dog Blues, ovviamente sempre qui a Tonight Alive Radio Wombat 1942. when the sun is going down, I sit behind that old western hill. I sit behind that old western hill. You know I wouldn't do a thing, not against my baby's will. And you know that's bad, I declare that's two black bags. I declare that's two black bags. You know my woman done quit me. Ooh, man, look at the whole round world is great. You know she stopped writing, wouldn't even send me no kind of word. I said she wouldn't send me no kind of word. She turned a little old back on me about some old old down thing she heard. But I'm going away, baby. I'm going to stay a very long time. I say I'm gonna stay a good long time. You know I'm coming back now, honey. Woo, baby, until you change your mind. I wake up every morning feeling sick and bad. I say soon every morning I'll be feeling mighty sick and bad. Thinking about the old time, baby, that I once have had. If I don't go crazy, I say I'm gonna lose my mind. I believe I'm gonna lose my mind. Cause I stayed worried, ooh, baby, and bothered all the time. Looking here, baby, sit right here on my knee. Sister ran down on my knee. Well, I just want to tell you just how you've been doing. What do you want for me to do? I say, what do you want me to do? I've been doing all I can, honey, just trying to get along with you. Queste erano Pony Blues e Low Down Dirty Dog Blues di Son House, che nel 1943 si spostò a vivere a Rochester, vicino a New York, dove tirò avanti facendo di tutto, dal cuoco, l'operaio della ferrovia, lo scaricatore di magazzino. Suonava pochissimo, e quando seppe che anche Willie Brown era morto nel 1952, smise definitivamente. Non mi piaceva suonare senza di lui, eravamo una coppia e da soli non contavamo niente. Poi, quando mi dissero che era morto, non ebbi più il coraggio di toccare una chitarra. E andiamoci ad ascoltare altri due pezzi di Son House. Una è Walking Blues, pezzo poi anche questo diventato abbastanza famoso, perché come appunto uno dei suoi brani precedenti, come Mississippi Country Farm, anche Walking Blues era andato perduto per poi essere ritrovato fu ritrovato addirittura il test pressing di Walking Blues in cima a una soffitta, ritrovato appunto per puro caso nel 1985. E l'altro brano che ci andremo a sentire, un'altra doppietta, è forse, anzi sicuramente, il suo brano più famoso, Death Letter Blues, proprio il suo capolavoro, proprio a livello sia chitarristico che di testi e di interpretazione, sicuramente il suo pezzo più famoso di tutta la discografia di Son House. E ovviamente è sempre qui a Tonight Alive a Radio Wombat. I got the blues so bad, I'm telling her now, don't you go. Questa era Walking Blues e adesso, come già anticipato, andremo a sentire il suo grande successo, Death Letter Blues, Son House. Da-da-da. sugar this morning, I do. You rang it red. You said, honey, can your love is dead. I got a letter this morning. How do you ring it red? You know, sir, hurry, hurry. I call it, can your love is dead. Oh, I grabbed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she's laying on a cooling board. I grabbed up my suitcase, and I said, I took her down the road. I said, but when I got there, she's laying on a cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. The good old dog of the day, the judgment day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. I said, the good old girl gonna lay in the judgment day. In the back of the 10,000 people standing round the burial ground, I didn't know I loved her. Tell her, let her down. Looked like 10,000 was standing on the burying ground. You know I didn't love her until I began to let her down. Well, I fooled up mom, I slowly walked away. I say farewell, honey, I'll see you judgment day. Yeah, oh yes, I walked away. I said, farewell, farewell, and I'll see you judgment day. You know I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. You know it's so hard to love someone don't love you. Ain't satisfaction, don't care what you do. Yeah, it's so hard to love someone don't love you. You know, look like it ain't satisfaction, don't care what you do. Well, I got up this morning to break a day. Just hugging the pillows she used to lay. I said, soon this morning, yes, it's a break of day. You know I'd hug the pillow, oh, for my good gal used to lay. I got up this morning feeding round for my shoe. You know I must have the walking blues. Soon this morning, I'm feeling out from my shoes. Yeah, I know about that. I must have the walking blues. Oh, hush! Thought I heard her call my name. It wasn't so loud, so nice and plain. Yeah. E questa era appunto Death Letter Blues di Sonhouse, e l'ennesima riscoperta poi del buon vecchio Son avverrà nel 1964, quando un giovanotto di nome Alan Wilson, ricercatore universitario nonché futuro chitarrista dei Kennedy Heat, che appunto presero anche il nome da un brano di Lonnie Johnson, appunto per citare il già citato prima Lonnie Johnson, e lo convinse a riprovare di nuovo. Gli ricordò quali fossero gli accordi di base e la maniera in cui lui sapeva suonare. lo fece registrare e ne vennero fuori un primo album, The Original Delta Blues, e poi un altro al tramonto degli anni 60. Una fitta serie di concerti, interviste e conferenze universitarie con un bel mucchio di ragazzotti bianchi che lo osannavano in ogni apparizione. E poi, appunto, dopo questa ennesima riscoperta, niente po' di meno che da parte di Alan Wilson, ripartì tutta una serie di tour in cui si imbarcò insieme ai vecchi reduci del country blues recuperati dalle campagne del Mississippi. Uno di questi fu tra l'altro un Mississippi John Hart, che insieme a lui venne accolto dalla scena musicale degli anni 60 e fatto suonare al Newport Folk Festival del 1964 e al Folk Festival del giugno del 1965. Ma sicuramente, se c'è un tour da ricordare di questa ennesima riscoperta di Sonhouse, sarà sicuramente il tour europeo del 1967, il tour dell'American Folk Festival insieme a due altre autentiche leggende del Delta del Mississippi e del country blues, ovvero Skip James e Booker White, tra l'altro altro discepolo di Charlie Patton. E l'ultimo tour in cui si imbarcò fu nel 1970, e sicuramente un disco da ricordare di questa sua fase finale è il doppio The Complete 1965 Session, che raccoglie l'album del rientro e numerose alternative and outtakes della medesima session. È sicuramente molto più intimista e riservato rispetto ai suoi lavori precedenti, scarno e poverissimo di suoni. La tecnica è la stessa di sempre, ma la registrazione è finalmente limpida e brillante, e la voce è bella e profonda come non mai. Col maggior spazio dell'LP a disposizione, Sonhouse si allunga arrivando addirittura ai 9 minuti di Livy Camp Moan insieme a Alan Wilson, appunto, di Kennedy all'armonica. La sua chitarra non è più ovviamente così dura come nei dischi delle origini del 1930, ma resta originalissima, rigurgitando ancora le note come conati dell'anima, particolarmente intense in un disco che dell'intensità fa la sua cifra stilistica, le versioni a cappella di John the Revelator e Grimmin' in Your Face, oltre all'inedita President Kennedy, che è qua praticamente in punta di folk. E sicuramente da ricordare di questa ultima session registrata in studio da Sonhouse è anche Motherless Child, oltre all'appena sentita monumentale Death Letter Blues, sicuramente possibile testamento definitivo di uno dei più grandi interpreti della musica americana del secolo scorso. E adesso non ci resta che ascoltare appunto Livy Camp insieme all'armonica di Alan Wilson. Tonight Alive, Radio Wombat. I had a good looking woman lived in Houston. I had a job on the levee. I had a good looking woman, she lived in Houston. thing. She kept me with the Governor Fleet Blues. You know, on every payday, she'd be standing round the landing crying. On every payday, she'd be standing round the landing crying. That big boy hurry and bring home that man of mine. You know, on every payday she could hear the big boy when she blow. On a payday, she could hear the big boat when she blow. But when I done got the check, she told me she couldn't use me no more. But I say that's all right, little girl. That's all right for you. Yeah, whoo, little girl, that's all right for you. I say you treat me low down and dirty. See, baby, that's the way you do. I packed up all my clothes, left her sitting in the back door crying. Sitting in the back door crying. You know that's on Rodney poor girl crazy. I believe she gonna lose her mind. You know, don't come here, honey, up your doggone hand. Don't come in, baby, I said throwing up your doggone hand. You know I've been your dog ever since then. I've been your man. But I said, baby, when you get lonesome, sit right down and write to me. Yeah, yeah, sit right down, you can write to me. Little riding, baby. Don't care where in this whole world I be. You know love at all for make you do things you don't want to do. You know love at all for make you do things you don't want to do. sometime. Well, leave you feeling so sad and blue. Oh, listen, yeah, honey. Think about poor me sometime. Think about poor me sometime. You know I feel so bad when you roll across my mind. You know if you never no more see me, forever be on my mind. If I never no more see you, yeah, you forever be on my mind. You know every time I think about you, honey, I just can't keep from crying. To love when they don't love you. Tell them, look at him, baby. Your little trouble is coming home someday. Yeah, just like I tell you, your little trouble is coming home someday. And you're gonna be sorry that you treated poor me this way. E questa era Livy Camp Moon di Sonhouse insieme ad Alan Wilson, e questo era l'ultimo pezzo che avevo scelto per la serata di stasera. Prima di lasciarvi, come uso e costume di Tonight Alive, ad un concerto, in questo caso ovviamente di Sonhouse, perché come vi potrete immaginare Charlie Patton, essendo morto nel 34, non ha purtroppo concerti registrati, anche perché probabilmente un registratore nel 1934 era grande quanto una stanza di un saloon, quindi non era proprio praticissimo da portare in giro. E ho scelto per voi questo concerto del 15 aprile del 1965 all'Oberlin College di Oberlin, appunto in Ohio, e questo appunto è uno dei concerti di quando poi è stato riscoperto per la terza e ultima volta nel 1964. E appunto vi lascio come di consueto al concerto finale per finire di accompagnare il vostro sabato sera, ma prima di lasciarvi, come sempre, vi ricordo il prossimo appuntamento in diretta di Radio Wombat, ovvero domani, domenica pomeriggio, come sempre in compagnia di Bloody Mary e la Virgi, che ci accompagneranno nella ripresa dalle fatiche del sabato sera con la loro trasmissione Fuga del Gatto, una domenica pomeriggio all'insegna della musica classica in piena ripresa, sperando di non far scendere troppo la bavetta sul divano la domenica. E allora vi saluto a tutti, un buon sabato sera e al prossimo appuntamento con O Tonight Alive o Basement Records, ormai l'avrete capito, e non è più uno e uno ma è abbastanza random a seconda di come mi sento quella settimana. E allora un abbraccio a tutti e buon sabato sera qui da Radio Wombat, ciao ciao. Wombat. All we hear is Radio Wombat. Radio Wombat.